dentro la valle del nulla. In vena un brago di fuoco. Dentro la valle del nulla. Tra le cartine, un gioco per conoscere. Nella valle del nulla mi persi tra i miei dotti versi dispersi come tersi. Gli angoli nella valle del nulla, un gioco pericoloso sulla stagnola, il cioccolato fumoso.